Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, e ancora buon anno. E state certi che in questo 2017 continueremo a parlare delle cose che ci interessano, come vivere meglio la dimensione professionale, di lavoro, come cercare delle soluzioni ai problemi che lavorando si presentano, chi fa sbaglia e chi non fa non sbaglia, dunque cerchiamo di fare anche sbagliando. Questa puntata è ovviamente una puntata speciale per avviare con l'anno nuovo qualcosa di proiettato proprio sui mesi che verranno, e soprattutto una valutazione anche della dimensione più, come dire, personale anche della vita. Come non farla con il nostro Antonio Capitani, che anche l'anno scorso è stato con noi qui a Nessuna è Perfetta. Buona domenica, benvenuto. Buona domenica, grazie, ben trovata Maria. Allora, come vogliamo procedere su lavoro, segno per segno, sì, perché quello è il nostro, diciamo, core business, ma siccome nella vita c'è posto, per fortuna, anche per altre dimensioni affettive, familiari, eccetera, raccontaci come vedi tu i segni del 2017. Va bene, allora li presentiamo nella solita maniera istituzionale, dall'ariete ai pesci, cominciando, sì, proprio dall'ariete, che stabilizza e rinnova su tanti fronti. Lavoro in primis, quindi contratto a tempo determinato, possono essere convertiti in assunzioni a tempo indeterminato, clienti, ingaggi e appalti, e arrivano, sarà anche più diplomatico, questa notizia verrà battuta da tutte le agenzie, sì, insomma, una rete diplomatica. Non si trova facilmente. No, direi di no. Toro, che ha un anno di media portata, senza scossoni né in negativo né in positivo. Nettuno e Plutone comunque lavorano in sotterranea per cambiare, resettare, modificare e realizzare ambizioni, segni e sogni importanti. Gemelli, testa di serie dello zodiaco, fortunato, cercato, apprezzato, in fase di espansione e di affermazioni. Colpetti di glutei a go-go almeno fino al 10 di ottobre. Questo non mi dispiace per niente, essendo io Gemelli, grazie. C'è anche un bello ormone croccante, se ti interessa, insomma, sempre pronto per piacevoli momenti, ecco. Il Cancro, spiace dirlo perché è il mio segno, ma insomma, non riceverà assist planetari significativi. In alcuni momenti dovrà un cicinino arrancare nel lavoro e in altri settori. La ricompensa però arriverà a ottobre, che non è domani, ma nemmeno fra un secolo. Coraggio, Cancro. Prego? Coraggio Cancro. Il Leone è uno dei due segni più favoriti dagli astri. Sarà il re Mida dello zodiaco e qualunque cosa toccherà la trasformerà in oro. Anno a 5 stelle nel lavoro, in amore e per il saldo bancario. La Vergine, che ha davanti un lungo fiume tranquillo, un anno sereno, che lo vedrà però tirare fuori due zebedei come due mongolfiere, e farà vedere la Vergine a tutti di che pasta è fatta. Le soddisfazioni ci saranno ancor più da ottobre. La Bilancia, segno fortunato e appoggiato, avvia e conclude progetti, stabilizza vita privata e lavorativa, porta a casa quattrini. Quindi mi pare un bel pronostico. Lo Scorpione, che scalda i motori per tutto l'anno, in vista di un autunno-inverno e di un 2018 brillantissimi. Da solo compirà meraviglie lo Scorpione. Mescolarsi troppo a equip, staff e gruppi potrebbe non fargli troppo gioco. Quindi lavorate in solitudine, cari Scorpioni, e vi verrà riconosciuto il merito. Questo... E avrà anche delle gran belle idee, meditando in solitudo. Il Sagittario, nonostante Saturno nel segno, il Sagittario acquisisce autorevolezza e corteggiamenti anche nel lavoro e dalla concorrenza. Migliorare e guadagnare soldi si può, purché si butti via ciò che ormai non serve più. Il Capricorno va piano, va lontano, acquisisce potere e si ammorbidisce, diventa un po' meno signorina Rottermeier e porta a casa soddisfazioni solide. Peccato l'amore, un cicinin sfigo pendulo, però da ottobre ci sono dei colpi di fortuna significativi. L'Acquario, secondo dei due segni più fortunati dell'anno, anche abile nell'ottenere ciò che vuole, oggetto di colpi di fortuna, a volte provenienti anche da contatti con luoghi, strutture e persone lontane o straniere. Il saldo bancario è in irrobustimento. Finiamo con i Pesci, che finalmente respira di sollievo dopo due anni non semplici, acquisisce carisma, conquista posizioni e rimpingua anche il conto corrente in attesa degli exploit previsti dall'autunno e inverno. Buon anno a tutti. Quindi Antonio Capitani, riassumendo, sì, i segni che, se ho capito, vanno benissimo sono Leone, Acquario e un po' i Gemelli? Direi che Leone e Acquario sono proprio i più favoriti, con tre outsider che sono Gemelli, Bilancia e Sagittario. Sul fronte, diciamo, italiano, se tu ti sei applicato, come lo vedi quest'anno per il nostro paese? Non ho fatto studi in merito, devo essere sincero, quindi rischierei di dire delle cose che non hanno molto senso. Abbiamo un nuovo premier che è uno Scorpione, avrà il suo bel da fare, e perché lo Scorpione, abbiamo detto che sì, ha degli assist planetari concreti, ma non è fra i più favoriti dell'anno. Abbiamo fatto l'oroscopo al governo, però, e sembrerebbe un governo autorevole, serio, apprezzato, in grado anche di apportare quelle modifiche e quelle riforme che tutti aspettiamo e che il paese desidera. Forse non molto abile a decidere in maniera di quattrini, c'è Giove, che è il pianeta dei soldi, non messo molto bene in questo tema natale del governo. Queste sono le cose che ti posso dire. Temo che ci sia una coincidenza tra i tuoi studi sugli astri e la situazione, perché sia sul fronte, come dire, dell'occupazione che su quello che si prevede possa essere un aggiustamento della manovra finanziaria, effettivamente sui soldi il governo non potrà largheggiare. Antonio Capitani, grazie di essere stato anche quest'anno con noi di Nessuna è Perfetta. Buon 2017 anche a te, che sei Cancro, e comunque abbiamo capito che il Cancro da ottobre in poi va meglio, giusto? Va meglio, certo, sì, bisogna aspettare un po', ma comunque poi alla fine ci prenderemo la rivincita, dai. Buon anno e grazie. Buon anno a tutti, grazie. Buona domenica, grazie. Ciao, buona domenica. Nessuna è perfetta. Allora, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, ed è, come sempre, il momento della nostra Sunday Girl. Come proiettarsi al meglio verso il nuovo anno, verso il 2017, se non con una Sunday Girl piena di energia e che ha come messaggio per tutti, addirittura come filosofia di vita, quella di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno? Buona domenica Lorella Cuccarini. Buona domenica a tutti. È il, come dire, la testimonianza vivente di quanto sia sbagliato il titolo della nostra trasmissione. Noi ci chiamiamo Nessuna è Perfetta e lei invece è l'immagine della donna perfetta. No, assolutamente conduttrice, no, cantante, paura. Ballerina, attrice, conduttrice radiofonica. Hai pure scritto una confessione, un libro confessione, Ogni giorno il sole, la vita e la filosofia del mezzo pieno, e in più hai una bellissima famiglia con quattro ragazzi che vanno che molto crescono, bene, ecco. Che continuano a crescere. Quindi sei perfetta. Nessuna vabbè, perfetta, diciamo, non è intanto, la tua trasmissione. No, diciamo che intanto aver scritto un libro, bisogna capire se è un merito, ecco, o se è uno dei miei peccati più grandi. No, a parte gli scherzi, nessuno è perfetto e vale assolutamente anche per me. Anzi, in questo libro io cerco un po' di sfatare anche, no, il mito della perfettina, della maestrina, insomma, come spesso mi chiamano, donna bionica, instancabile, infaticabile. Sono sicuramente una donna piena di energia e che come dire, fa il suo mestiere con grande passione, come quando aveva 20 anni, però insomma di difetti bisognerebbe parlarne con i miei familiari, ecco, per tirarmi un po' più fuori. Un giorno o l'altro inviteremo come agente provocatore tuo marito in trasmissione. Esattamente, vedrai che ne verrà fuori proprio un ritratto molto, no, molto diverso, no, però insomma con sicuramente degli come dire degli sprazzi anche molto molto divertenti. Senti, noi qui a Nessuna è perfetta parliamo spesso di sconfitte, proprio perché siamo convinti che le sconfitte, i passi falsi, le cose che non vanno bene, che poi si possono riprendere, siano, come dire, parte della vita e non sono, come dire, l'ostacolo determinante per cui poi tutto si blocca, ma sono un modo per ricominciare. Assolutamente. E una delle cose che piace molto al pubblico di Lorella Cuccarini è che anche nei lunghi anni in cui in TV ti si è visto di meno, tu non è che hai smesso di fare, hai fatto molto di più, hai fatto teatro, sì, hai fatto esperienze diverse. Allora, come hai trovato la strada per non sentirti frustrata? Ma guarda, anch'io ho vissuto e sono passata attraverso momenti di frustrazione, di rabbia, perché insomma sarebbe una bugia dire il contrario, però io posso dire oggi, guardando alle spalle, che effettivamente sono proprio i momenti in cui, come dire, attraversi il dolore, attraversi la fatica, attraversi le difficoltà, quelli in cui cresci di più. È un po' questa, diciamo, la filosofia del mezzo pieno, no? Cioè riuscire a capire, a carpire cosa c'è di buono anche nelle esperienze più difficili che capitano nella vita. Io oggi li vedo quasi come periodi benedetti, perché io sono cresciuta e ho riacquistato, come dire, una nuova gioia, no? nel vivere, nel continuare a vivere, sempre dai momenti, dagli schiaffoni, da quelli che io ti chiamo gli schiaffi che la vita in qualche modo ogni tanto ti dà, perché i momenti in cui va tutto bene non servono a nulla, alimentano solo il nostro ego, difficilmente ci fanno fare dei passi avanti. Invece i momenti difficili ci permettono di crescere, di riorganizzare anche la nostra vita e di ripartire con, ecco, il piede giusto. Ma tu, quando per esempio sei passata dalla TV al teatro, dove per citare solo Rapunzel, che è stato un musical campione di incassi, ma c'è stato, sì, Grease, c'è stato Sweet Charity, avrai avuto forse anche un po' di paura, perché il teatro impone di essere bravi a caldo, non puoi fare le prove quando stai live. Ecco, la paura di metterti in gioco su un terreno diverso da quello più forse confortevole della TV. C'è sempre. Allora, la paura c'è sempre, secondo me non bisogna aver paura della paura, perché la paura è l'ostacolo vissuta, diciamo, nel modo più sbagliato, è l'ostacolo che può veramente impedirci di fare le cose migliori. Invece tutto sta nel vivere la paura e trasformarla, saperla trasformare in determinazione, in ambizione, no? Ecco, è chiaro, io ancora oggi, insomma, quando salgo su un palcoscenico, malgrado lo spettacolo l'abbiamo preparato a fondo, perché poi insomma il teatro, l'hai detto anche tu, no? Richiede comunque una grandissima preparazione, e tutte le sere è uno spettacolo senza rete, nel senso che può succedere di tutto e devi sempre saper riconquistare il pubblico, però ecco, quella paura, se tu la sai trasformare, quel mal di pancia, no, che tu hai all'inizio, sì, prima di entrare, quel vuoto che ti pare di non ricordare neanche mezza battuta di quelle che devi dire, ecco, nel momento in cui poi si accende tutto, entri in scena e guardi negli occhi il pubblico, tutto si trasforma in un gioco meraviglioso. Quindi insomma probabilmente questo deriva anche un po' dallo sport, dalla danza, no? E bisogna saper veicolare la paura, perché non possiamo fare a meno di provarla. No, certo, se è, come dire, il carburante che poi consente di fare meglio. Senti, nel tuo ultimo grande successo, il ritorno in TV con Heather Parisi, Nemica amatissima, sì, avete un po' marciato sulla competizione tra donne, ci avete un po' marciato, ma diciamo che abbiamo cavalcato quella che è stata costruita per tanti anni, ma sicuramente insomma che poi io soprattutto, insomma, l'ho detto spesso, è maturata per il fatto che abbiamo percorso parallelamente tanti anni, no, di lavoro, di professione, senza quasi mai incontrarci, perché poi noi ci saremmo ritrovate sul palcoscenico 3-4 volte in 30 anni. anni, per cui è chiaro che questo ha alimentato anche un po' di competizione che sicuramente all'inizio c'è stata, perché poi è inevitabile, insomma, quando tu arrivi. Ma le donne continuano a essere le peggiori nemiche delle altre donne? Diciamo che secondo me quando c'è sodalizio fra le donne è un sodalizio incredibilmente forte e che veramente è produttivo, aiuta tantissimo ed è un beneficio per tutte. Esattamente. Però c'è da dire che effettivamente, insomma, fra le donne spesso c'è una competizione che può andare anche al di là di quello che è la sana competizione. Ma nasce da insicurezza, cioè una donna quanto più è insicura, tanto più non aiuta un'altra donna? Sì, io penso che dipenda dalle insicurezze e spesso anche dalle occasioni, dalla mancanza di occasioni. Nel senso che poi le donne hanno talmente poche possibilità di emergere che nel momento in cui hanno l'opportunità pensano un po' più, no? A se stesse in una visione autoreferenziale. Sbagliando, perché gli uomini hanno capito nei secoli che l'unione fa la forza torna. Lo capiremo anche noi, insomma, poi lo capiamo, non è che non sempre lo capiamo. Senti, quando lo capiamo si vede. Nel 2017, forte di queste belle esperienze, che cosa porti, che cosa hai imparato del 2016 che vorresti portare nel 2017 e che vuoi condividere con noi? Ma guarda, lo stupore per quello che mi è successo nel piccolo, insomma, io guardo poi la mia vita principalmente, no? E devo dire che in quest'anno, malgrado sia stato un anno strano, un anno particolare anche per noi, proprio dal punto di vista del paese, no? Di tutto quello che è successo, non soltanto nel nostro paese, ma anche a livello internazionale, invece a me sono successe cose assolutamente inaspettate, no? E questo in qualche modo continua ad alimentare in me questo stupore, questa voglia di guardare la vita sempre un po' con gli occhi anche della bambina, no? Del bambino che è in noi e che non dobbiamo mai perdere di vista, perché quando pensi che le cose oramai, come dire, in qualche modo abbiano preso una linea, no? E si cammini sempre verso un sentiero, poi succedono delle cose che rimettono tutto in discussione, ma spesso anche del bene proprio, no? con grandissima sorpresa, per cui questo voglio lo stupore, la capacità di stupirsi e di stupirsi in questo caso positivamente. Sì. Un buon proposito per te, Lorella, per il 2017 che ti vede ovviamente di nuovo piena di progetti, però il proposito diciamo più personale, più privato di Lorella. Ma di continuare a camminare a fianco dei miei figli, che in questo momento devo dire sono un po' il mio pensiero più grande, perché sono tutti adolescenti e grandi, insomma, vanno dai 16 ai 22 anni, quindi è un periodo molto importante per loro, no? Un periodo per i più grandi che è quello, insomma, della quasi fine dello studio. Certo. Una ha già cominciato a lavorare, gli altri due stanno un po' cercando di capire cosa fare nel futuro, per cui insomma io sono molto proiettata ad accompagnarli e in qualche modo anche a cercare di aiutarli, no? A fare le scelte giuste per il futuro, perché non lo so, sarà che poi quando uno diventa mamma è la priorità. È per loro. E poi soprattutto, ecco, dal punto di vista professionale, per carità, ci sono tante cose, ma quelle non sono così importanti, o meglio, sono importanti ma lo sono solo per me. Invece io cerco sempre di avere un occhio all'esterno, soprattutto perché poi occupandomi di terzo settore da ormai 22 anni, e spero di poter mettere a frutto ancora tanti progetti e tante cose, tanti progetti importanti per il nostro paese, perché credo che ognuno di noi possa fare la sua parte, no? E quindi fa stare meglio, fare la propria parte fa sentire anche meglio. Sì, ma soprattutto, dà anche un senso al nostro lavoro. Il mio lavoro, in realtà, se poi lo vai a vedere, insomma, rischia di essere veramente molto sempre autoreferenziale e leggero. Invece, quando poi riusciamo a mettere anche la nostra popolarità a disposizione di cause più importanti, devo dire, insomma, che è veramente bello. Senti, è un modo di fare politica, tutto sommato, ed è anche un bel modo. Lorella Cuccarini, mentre ci salutiamo e ci facciamo gli auguri perché questo 2017 sia pieno di energia come sei tu. Vuoi mandare un pensiero a tutte le ascoltatrici che ormai sono convinte che nessuna è perfetta, non è una cosa per cui uno si debba sentire a disagio, anzi bisogna convivere con le proprie imperfezioni. Che cosa vuoi dire a loro? Ma che l'imperfezione è qualcosa di meraviglioso, l'importante è imparare ad amare le nostre imperfezioni. Io con il passare del tempo, perché insomma a 20 anni ero molto meno tollerante con me stessa, oggi a 51 anni sono molto più tollerante e ho imparato ad amare, soprattutto ad amare le cose che meno mi piacevano di me, per cui insomma auguro a tutte le donne che ci stanno ascoltando di riuscire in qualche modo a mettere in pratica, no, questo perché è così, perché poi l'imperfezione è così bella, per cui viva l'imperfezione. Bene, buon 2017 Lorella. Grazie, a voi un abbraccio, ciao, ciao, grazie. Ciao. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta a Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Questo è il momento della lettera della settimana. Vi ricordo che potete scrivere a Nessuna è perfetta @radio24.it e anche commentare con noi su Twitter usando l'hashtag Nessuna è perfetta. Questa volta a scriverci è un papà. Forse sarà stupita del fatto che è un uomo a scriverle, ma seguo il suo programma su Radio 24 e ho pensato di chiederle un consiglio. Ho 53 anni, sono medico e ho due figlie che stanno muovendo i primi passi nel mondo del lavoro. Ed è per questo che le scrivo. Sono preoccupato per loro e per il futuro che le attende. Sono preoccupato per i dati economici, per gli equilibri che anche nel mondo sembrano precari. A questa eredità del 2016 seguirà qualcosa di peggio? Che cosa dobbiamo aspettarci per l'anno appena iniziato? Grazie, Paolo. E io vi presento subito i due esperti che meglio di me potranno rispondere alle inquietudini di Paolo. Benvenuti, buona domenica, Linda Laura Sabbadini, statistica sociale editorialista della Stampa, e Marco Mazzucchelli, Managing Director di Julius Baer a Zurigo. Buona domenica a entrambi. E io andrei subito da Marco Mazzucchelli. Il 2016, tra le tante inquietudini che ci ha portato, ce ne ha portata una che forse ci lascia anche in eredità per il 2017, quella della situazione delle banche italiane. Che previsioni si possono fare? Buongiorno. Sì, è stato un elemento caratterizzante il 2016, in larga parte però è stato un problema di sistema bancario mondiale. E credo che il 2016 ci consegni alla fine un sistema bancario molto più forte in cui si sono visti tra l'altro dei segnali importanti negli ultimi mesi attraverso la ripresa delle quotazioni, perché molte delle circostanze esterne che hanno penalizzato il settore bancario, i tassi negativi, le perdite sui crediti, le sanzioni, le multe miliardarie, sono in larga parte a questo punto dietro le spalle. Il sistema bancario italiano ha sofferto del fatto, come sappiamo, di aver indirizzato questi problemi in modo tardivo. Io però sono molto fiducioso e le vicende di queste ultime settimane testimoniano che le banche che hanno preso il toro per le corna in realtà hanno la possibilità di impostare una strategia positiva negli anni a venire. Sono in discussione con le banche invece che sono ostinate a non affrontare i problemi in modo decisivo, e forse quelle sono banche che magari nel sistema economico futuro non avranno ruolo e dovranno essere incorporate da altri istituti. Mi chiedo, Mazzucchelli, se la svolta che c'è stata per il Monte Paschi di Siena avrà una coda pesante ancora nel 2017 o potrà invece segnare un punto di svolta? Bene, la mia impressione è che sarà la seconda scenario, perché questo episodio finale del Monte dei Paschi forse in qualche modo una conclusione già scritta da diverso tempo. Dispiace, ma era a questo punto inevitabile andare per una soluzione più draconiana. Forse è il tassello ultimo di un processo di riposizionamento, di riconversione del sistema bancario che nel caso, diciamo, del settore in senso lato a livello internazionale è durato parecchio tempo. Ci sono già viste dei segnali positivi nel corso del 2016 per i sistemi bancari esteri. Qualche banca italiana ha già cominciato per tempo a riadattare la propria strategia, a riposizionarsi. Mancavano alcune situazioni importanti, quella del Monte dei Paschi era più evidente. A questo punto direi che è stato messo in sicurezza, seppure in modo diciamo faticoso e anche penalizzante per alcuni risparmiatori, però questo è un problema che abbiamo messo alle spalle, per cui lo guardo con molta più fiducia il 2017, perché in qualche modo abbiamo tolto quest'ultima. Quindi non è una zavorra che ci portiamo nel 2017, ma è un peso in meno, per diciamo tradurlo in maniera un po' semplice. Certamente, cioè sarebbe stato un peccato che il 2017 per il nostro paese fosse ancora condizionato da un problema, quello del sistema bancario in senso lato, che invece in larga parte, a mio avviso, è ormai stato indirizzato. Abbiamo delle condizioni molto più positive dal punto di vista macroeconomico internazionale, il nostro paese parte un po' in svantaggio, ci manca soltanto che abbia ancora il problema pregresso delle banche non in sicurezza. A questo punto direi che l'abbiamo messo alle spalle. Ecco, Linda Laura Sabbadini, ricollegandoci al mondo delle banche, si fa pulizia ma si licenzia anche tantissimo, sono stati annunciati decine di migliaia di esuberi sia in Unicredit che in altre banche. Dunque dobbiamo attenderci per il 2017 per i dipendenti degli istituti di credito, ma anche in altri settori, dei forti ridimensionamenti del personale? Allora, intanto va detto che con il 2016 noi ci lasciamo alle spalle una situazione dal punto di vista del mercato del lavoro che è ancora molto da recuperare, no? Che però non è una situazione che sta andando peggio di prima, cioè noi siamo usciti dalla recessione del 2014, però come sappiamo le conseguenze sul piano della crisi sociale si sentono per lunghissimo tempo. Il 15 e il 16 sono andati un po' meglio rispetto al mercato del lavoro, non abbiamo ancora recuperato tutto quello che avevamo perso con tutta questa crisi così lunga. E questo ovviamente lascia un segno sul paese profondo, perché siamo un paese dove la disuguaglianza è cresciuta tanto e ancora sul fronte proprio della povertà non siamo riusciti a tornare perlomeno a farla diminuire, cioè questa povertà è cresciuta anche nelle famiglie operaie, nelle famiglie dove si lavora, dove c'è il lavoro, perché magari i redditi sono troppo bassi, non si riesce quindi a mantenere la propria famiglia, perché magari si guadagna in uno solo, e quindi il problema è che quello che è stato fatto e che un pochino è cresciuta l'occupazione non è stato sufficiente ancora per far sì di aumentare il benessere delle persone. Quindi uno dei problemi numero uno e una delle sfide numero uno che abbiamo è di dare una forte spinta sul fronte dell'occupazione. Non possiamo più crescere a questi ritmi. Come si fa, Linda Laura Sabadini, a immaginare che nel 2017 l'occupazione cresca, e in quali settori? Se per esempio, se ci ricolleghiamo a quanto si diceva prima sulle banche, Unicredit, ho citato una banca ma potrebbero essercene altre, ha annunciato un piano di riduzione del personale. Allora c'è la possibilità che si chiudano dei settori, no? Si chiudano le prospettive in alcuni settori e se ne aprano in altre, o come si può aumentare l'occupazione in un paese come l'Italia, che ha una crescita stagnante? Un paese come l'Italia ha bisogno ovviamente di una ripresa sul fronte dei consumi. Ci sono tanti elementi che si combinano anche da un punto di vista economico. La cosa che va sottolineata è che dietro, diciamo, i nostri problemi c'è anche una difficoltà, una mancanza di fiducia, diciamo, da parte dei cittadini, che ovviamente, vedendo di fronte a sé una crisi che si allunga così tanto nel tempo e un intervento ancora poco come dire incisivo rispetto a tutta una serie di aspetti che possono facilitare la crescita dell'economia, e questo fa sì che ognuno di noi è più tiepido nella possibilità, anche se sta meglio, nella possibilità magari di consumare di più, è molto più reticente, è molto più portato magari a risparmiare, non a caso i risparmi stanno crescendo un po'. Cioè noi abbiamo una parte del paese che sta in grave difficoltà, e su quella ovviamente bisogna agire per recuperarla, ma una parte del paese che sta magari in situazioni migliore, ma che non osa perché non ha fiducia, certo, che effettivamente si possa migliorare la situazione. Questa parte deve usare un po' di più. Per fare questo bisogna muoversi in primis anche come governo, nel senso che bisogna investire anche in infrastrutture, abbiamo bisogno di investire bene, per esempio nella cura, certo, in servizi sociali, Sabadini, vedremo cose. Gli sviluppi di quello che potrà fare il governo Gentiloni. Santa Mazzucchelli, c'è una grande aspettativa però a livello internazionale, perché il 20 gennaio si insedia negli Stati Uniti la nuova amministrazione Donald Trump, e il mondo della finanza, le borse eccetera, sono convinti tutti che da lì, dagli Stati Uniti, arriverà un impulso all'economia mondiale. C'è anche chi pensa che sarà, come dire, un boost di breve durata e che poi le conseguenze negative si avvertiranno dopo. Tra le due opzioni, lei da quale parte sta? Dunque, anzitutto io volevo ricollegarmi a quello che ha chiesto il lettore, sì, inizialmente, cioè come affrontare le tematiche e il futuro anche dal punto di vista delle sue due figlie. Io credo che se il suo lettore ci ascolta questa trasmissione, finora avrà ricavato una impressione molto ancora più preoccupata del futuro. Io invece vorrei riuscire a convogliare un elemento molto più positivo, cioè mi viene da dire che si è girata la situazione a livello mondiale. Noi avremo sicuramente nel corso del 2017 un tasso di crescita complessivamente dell'economia mondiale superiore. Questo per il fatto che si viene a realizzare una staffetta importantissima la politica monetaria e politica fiscale. Ci prendiamo qualche minuto di pausa per le informazioni sul traffico, poi torniamo con Nessuna è perfetta. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Nessuna è perfetta. Eccoci ritrovati a Nessuno è perfetta, la trasmissione di Radio 24, quella che voi lo sapete ogni domenica vi ricorda di non massacrarvi con 50 cose fatte tutte insieme, perché tanto il multitasking è una fregatura, non è un mito, è una fregatura e Wonder Woman non esiste. Questa puntata è ovviamente una puntata speciale per avviare con l'anno nuovo qualcosa di proiettato proprio sui mesi che verranno. Santa Mazzucchelli, faccio la domanda dal punto di vista del nostro ascoltatore Paolo. Andranno magari bene i mercati, faranno un sacco di soldi i banchieri, i finanzieri, ma per le due figlie che in Italia, le due ventenni che cominciano a fare i primi passi nel mondo del lavoro, magari non cambierà niente. Ma mi dispiace questa lettura ancora scaricata sui banchieri, anche perché secondo me le banche ormai hanno un ruolo molto meno centrale di prima. Io credo invece che tutti i fattori di produzione, cioè non solo il capitale che verrà remunerato di più, come vediamo dal fatto che i tassi reali stanno crescendo, ma anche il fattore produzione lavoro, anche il fattore produzione risorse, lo vediamo dai prezzi delle energie, saranno remunerati maggiormente. Quindi ci troviamo in una situazione in cui i flussi di cassa aziendali aumentano, non necessariamente vanno a introdursi in aumento dei profitti, perché il costo dell'utilizzo dei fattori di produzione crescerà. Detto in altri termini, il reddito spendibile andrà a crescere. Questo determina una situazione in cui è molto probabile che gli investimenti, sia privati che pubblici, andranno a crescere, e questo indubbiamente, se sono investimenti in produttività, genera anche alla fine occupazione di qualità. Per cui io credo che le figlie del di Paolo avranno molte più possibilità di avere una collocazione interessante nel 2017-2018 di quanto lo avrebbero avuto, lo hanno avuto nel 15 e 16. Marco Mazzucchelli, che bello, che bello avere questa iniezione di fiducia. Linda Laura Sabbadini condivide l'ottimismo di Mazzucchelli, e per quanto riguarda, diciamo, proprio la proiezione sull'occupazione femminile nel 2017, che sensazioni e che dati avete già? Allora, quello che penso è che bisogna fare un grosso investimento che riguarda sia la ricerca, l'innovazione, che riguarda tutto il fronte delle politiche sociali, perché fino adesso questi aspetti sono stati visti come costi e invece possono essere la vera leva per far crescere, per far fare un balzo al nostro paese. Questo verrebbe incontro anche alle esigenze che ci sono sul fronte dell'occupazione femminile, perché investire su questi settori significa investire su dei settori su cui le donne sappiamo che hanno i numeri, diciamo così, per giocare il loro ruolo. Fino adesso l'occupazione femminile è stata fortemente compressa. È vero che non ha avuto una botta grossa come hanno avuto gli uomini in questi anni di crisi, la differenza di genere è diminuita, ma più perché gli uomini hanno perso piuttosto che perché le donne hanno aumentato, sì, posti di lavoro. Però bisogna dare la possibilità di giocarsi questa questo elemento anche con politiche di conciliazione adeguata, ma politiche di conciliazione adeguate significano investimenti sociali, di innovazione sociale ad ampio spettro e investimenti sul fronte della ricerca e sviluppo, che sono sbocchi su cui le donne andrebbero tantissimo, ma sui quali noi siamo la retroguardia a livello europeo e nei paesi avanzati. Allora, in chiusura, Mazzucchelli e Sabadini, da 1 a 10, che voto date all'anno che si è chiuso, al 2016, e che voto dareste, come dire, con una prospettiva fideistica al 2017? Mazzucchelli? Dunque, il punto che voto mi do sul 2016, mi do un 4,5, perché certamente non ho capito tante cose e c'è un momento di autocritica importante per chiunque faccia il mio mestiere alla fine di un anno come questo. Dal punto di vista di sistema mondiale è un anno importantissimo, per cui direi che è un anno da 8, perché spariglia decisamente alcune metriche, alcuni modi di pensare che erano forse troppo consolidati e che poi ci hanno portato ad essere molto distanti dalla realtà. Sul 2017 non possiamo che essere ottimisti, per cui io, per quanto mi riguarda, punta quantomeno alla sufficienza, per cui vorrei arrivare almeno ad un 7 e sono convinto che l'anno invece sarà molto importante, per cui sarà un anno che ci ricorderemo in modo più positivo, per cui gli darei un 9. Magari, Mazzucchelli, queste cose ci, come dire, aprono il cuore alla speranza. E Linda Sabadini, che voto si darebbe, che voto darebbe al 2016, allora, e poi al 2017? Non posso dare voti di sufficienza finché la disuguaglianza rimane a livelli così alti come siamo arrivati con questa crisi. E non mi sento di dare ancora un voto per il prossimo anno, perché so che purtroppo i tempi con cui assorbiremo questo non possono essere tempi brevi. Se anche avremo una bella ripresa da un punto di vista economico, cosa che dagli esperti non sembra esserci, difficilmente questo ci permetterà subito di riassorbire tutti gli effetti negativi sul sociale. Però spero che ci sia una grande, come dire, scossa che venga data su questo fronte, sia con politiche di investimenti seri dalla parte dei cittadini, sia con politiche di redistribuzione del reddito. Allora, intanto accontentatevi dei nostri auguri e buon 2017 a Linda Laura Sabadini e a Marco Mazzucchelli, i nostri esperti di questa domenica. Grazie. Saluto anche voi, buona domenica a voi che ci avete seguito.